Allora, le facciamo due domande. Sì. Come si trova a Tione? Bene. Bene. Poi... Cosa pensa dei giovani? Non so. A me giovani mi piace perché sono già anche io giovane, è normale. E cosa pensa, cioè, i giovani secondo lei cosa pensano degli adulti? Non lo so.